happy ending nel senso tradizionale del termine, nel senso che un lieto fine era abbastanza poco credibile, sì. Però un happy ending comunque, si è visto il film, perché certo. È comunque un finale felice in qualche modo, cioè c'è una felicità, c'è una riconciliazione, c'è un traguardo raggiunto, ecco, che ovviamente non è scontato, certo. Però è molto più vero. Che uscita sarà? Allora, usciamo in 50 schermi, quindi abbiamo 4 sale a Roma, 2 a Milano, e 2 a Firenze, Bologna e in tutta Italia. Una bella uscita, siamo molto contenti. Abbiamo avuto una bellissima copertura stampa, davvero incredibile. E... Che tu sappia, al di fuori della Francia, nei cinema all'estero è andato e come è andato? Allora, so solamente che è andato molto bene anche in Belgio, che è uscito praticamente in contemporanea con la Francia, come sempre, perché per motivi linguistici escono quasi sempre affiancati, ed è recentemente uscito in Spagna, dove sta andando abbastanza bene. E allora, ricordiamo l'uscita in sala del film Le Invisibili da giovedì 18 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento a Margherita Chiti di Teodora Film, che lo distribuisce. Margherita, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie il lupo, grazie mille. Con Michele Crocchiola per parlare del film Torna a casa Jimmy. 10 cose da non fare quando perdi il tuo cane a Cipro, in uscita al cinema da giovedì 12 aprile 2019. Michele, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Distribuito da Tucker Film, raccontaci un po', intanto descriviamo cos'è. Intanto mi rivolgo a tutti i proprietari di cani, perché se doveste andare a Cipro, giusto appunto, cercate di tenere il vostro cane al guinzaglio, perché Cipro è divisa ancora a metà, c'è la parte nord che è turca, occupazione turca, e la parte, il resto dell'isola è rimasta greca, e Nicosia, la capitale, un po' come era Berlino, come lo è stata Berlino per tanti anni, è divisa a metà, ci sono i checkpoint, c'è una sorta di muro. Ora voi immaginate che abitate a Nicosia, il vostro cane scappa e scappa dall'altra parte. Scappa in un altro paese, devi usare il passaporto per cercare di andarlo a riprendere. E è quello che farà il protagonista all'inizio del film. Gli scappa il cane, cerca di andare, va nella parte turca, lo ritrova. Quando rientra al checkpoint greco, i greci, quindi i suoi, gli dicono: ma c'è una legge che vieta di importare animali vivi nella parte greca dalla parte turca. E lui dice: ma scusate, il cane qui è greco, è solo scappato, devo farlo rientrare. Non sentono ragioni, la burocrazia non sente ragioni. E quindi parte tutto il film di cercare di riportare il cane con metodi più o meno fantasiosi dalla parte turca alla parte greca. Una commedia per parlare di una delle assurdità del mondo storicamente, di un'umanità che si divide, che si crea dei muri che separano una parte dall'altra. Sì, io devo dire che il regista, che è cipriota, ha studiato tanti anni negli Stati Uniti, ma è di lì, in un'intervista ha detto una cosa forse banale, ma fantastica per quella situazione lì. Ha detto che quando lui, dopo, mi pare il 2003, quando hanno aperto i checkpoint, quindi quando le due parti potevano viaggiare da una parte all'altra della città, e lui è andato di là, e gli avevano sempre insegnato che la parte turca, lui che è greco, era diversa, era il nemico, era qualcosa che in realtà non bisognava nemmeno visitare, guardare, era un territorio occupato. E lui è andato di là e ha detto: ma qui è tutto molto simile alla mia di parte. Sì, parlano un'altra lingua, ma alla fine è tutto uguale, perché alla fine è la stessa città. Ecco, lì che c'è un muro, quindi c'è un confine fisico e non solo mentale, come magari stiamo costruendo noi in Europa, e quindi tu attraversi il confine, si vede anche nel film come è costruito, come riesce a isolare, una città in due parti, E poi però appunto rendersi conto che alla fine nel momento che parli con le persone, che ci dialoghi, che devi risolvere un problema insieme, anche se un problema appunto riguarda un piccolo cane, le cose che ci accomunano sono molto di più di quelle che ci separano. Tanto spesso è così, solo che ce ne dimentichiamo. Nel titolo originale il Jimmy è proprio Hendrix. Ah sì, fantastico. voi immaginate, poi magari andate a vedere il trailer, il cane è un piccolo bastardino, quindi forse il cane meno rock che potete immaginare, ma il suo proprietario è un musicista e ha chiamato questo bastardino Jimi Hendrix. E quindi il Jimmy del titolo viene da Jimi Hendrix. Il titolo originale che tu ricordavi è Smuggling Hendrix, quindi hanno usato il cognome. Se facciamo la crasi tra il titolo italiano e quello internazionale, abbiamo di nuovo il nome del musicista. Di questo regista cosa sappiamo? In Italia non sappiamo niente. Praticamente, okay. Però in compenso sappiamo molto dell'attore protagonista. Non me ne vogliano gli altri distributori o lo stesso Fatih Akin, ma in un certo senso questo è il nuovo film di Fatih Akin, non diretto da Fatih Akin, perché il suo protagonista è Adam, e non pronuncerò mai il cognome perché è difficilissimo, ma insomma lo conosciamo tutti perché era il protagonista di Soul Kitchen, una delle ultime commedie, secondo me, di maggior successo, cult, di, appunto, del regista turco-tedesco, e in realtà anche della sposa turca, sarà anche del prossimo di Akin, quindi il pubblico italiano in realtà quando andrà al cinema riconoscerà il viso un po' da cazzone, scusate la parola, ma non c'è altro termine, del protagonista che è perfetto nel ruolo di un musicista spiantato che insegue il cane in giro per Nicosia. Quindi regista sconosciuto ma molto bravo. Devo dire che con questo film lui ha vinto il Festival Tribeca, quindi ai newyorkesi, se vogliamo dire così, il film è piaciuto molto, alla fine ha vinto un festival internazionale, magari non di primissima fascia, ma insomma piuttosto importante. Mm-hmm. Al cinema all'estero è stato amato? Sì, non ha avuto ancora tantissime uscite, ma ha funzionato in Grecia, sai com'è? Da quelle parti il tema è sentito, però sai, diciamo che noi qui siamo in zona Roma, allora per parlare di confini e di tutto posso dirti che abbiamo fatto un'anteprima a Milano e lì ha funzionato, quindi all'estero in un certo senso ha funzionato. Poi vabbè, abbiamo fatto un'anteprima anche a Roma insieme alla festa del cinema e è sempre bello quando entri in sala e ci sono le risate del pubblico, questa è una cosa che quando sei distributore e ti metti in fondo alla sala, hai il pubblico, e stai in piedi, no? E osservi quasi più i movimenti della sala piena che il film stesso, e c'è quel momento in cui tutti senti un po' la tensione, quelli che ridono tutti insieme, e lì è la magia del cinema, e senti che hai fatto bene a prendere il film, che la gente andrà al cinema e sarà contenta. E allora ricordiamo il film Torna a casa Jimmy, 10 cose da non fare quando perdi il tuo cane a Cipro, al cinema da giovedì 18 aprile 2019, distribuito da Tucker Film. Un saluto e un ringraziamento a Michele Crocchiola. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Crepi il lupo in questo caso. Ciao Michele. Ciao. Con Simone Totola di Officine Ubu per presentare il film Cyrano Mon Amour al cinema da giovedì 18 aprile 2019. Simone, ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti. Ciao. Raccontacelo brevemente. Siamo a Parigi alla fine dell'Ottocento e Edmond Rostand è un giovane drammaturgo che ha un talento geniale nel scrivere delle pièce teatrali, ma sfortunatamente tutto quello che lui ha scritto si è poi rivelato un flop. Grazie però alla sua bontà d'animo, al suo effettivo talento, la sua cara amica Sara Bernard, una delle più grandi attrici teatrali di quel periodo, lo prende sotto la sua ala e lo fa incontrare con Constant Conclin, che è un altro grande attore che visse in quel periodo. Constant Conclin

siti che pubblicano il logo di Diario Cine Club, dove i lettori possono scaricare liberamente la rivista. Tra queste 100 circa edicole virtuali ci sono 4 radio indipendenti che trasmettono dalla Sardegna. Queste 4 radio le abbiamo contattate per sostenerle come loro sostengono noi, e quindi abbiamo creato sul sito del Cineclub, Diario di Cineclub, una pagina dedicata a Radio Amiche. Il nostro intento è che questa lista di Radio Amiche si allarghi e diventi sempre più numerose. Queste 4 radio li abbiamo messi anche in contatto tra di loro. Tra queste 4 radio c'è Radio Brada, che ci ha dedicato un canale e che prossimamente pubblicheremo ciò che rendiamo pubblico su Diario di Cineclub. Cominciamo col dire qualcosa anche di Radio Brada, che è una radio storica. Ah, Radio Brada è storicamente importante perché è stata la prima radio italiana a trasmettere la notizia della liberazione d'Italia. Lo ha fatto 20 minuti prima della Radio di Roma, e quindi insomma ha questa medaglia importante, diciamo, ecco. È una radio che trasmette in podcast, e quindi stiamo creando questo canale dedicato a Diario di Cineclub. Okay. Come si è creata la connessione tra voi e Radio Brada? Allora, Radio Brada è un'altra radio appunto indipendente, e un sottotitolo c'ha: web radio della comunità, la web radio che dà voce alla tua vita, perché praticamente è fatta da contributi volontari, come è Diario di Cineclub, che esce il primo di ogni mese con tutti i contributi volontari. Spieghiamo anche un po' a chi ci ascolta l'esperienza di Diario di Cineclub, raccontiamolo un po' la storia e anche le sue caratteristiche. Il prossimo 1° maggio uscirà il numero 72, è, come ho detto, una rivista mensile, è una rivista che ha un costo zero, sarebbero i nostri fondi neri sono tutti militanti della cultura, dei circoli del cinema, e contribuiscono con i loro testi o a livello tecnico gratuitamente. Diario di Cineclub esce da 72 numeri senza aver mai chiesto una linea di finanziamento, perché non li vogliamo i finanziamenti, e rischio della pubblicità. Viene distribuita online sotto forma di PDF, e praticamente con l'aiuto di queste 100 edicole virtuali, dove praticamente il lettore può scaricare la rivista gratuitamente o la può leggere. Tra queste 100 edicole troviamo di tutto, troviamo anche, e di cui io sono contento, mi piace, a me, un importante istituto estetico che non c'entra niente con la cultura, però la cliente che va sul sito, va su questo sito per prenotarsi la propria seduta, scopre che c'è una rivista di cinema e per curiosità la scarica, e abbiamo scoperto che alcune di queste clienti sono diventate nostre lettrici, solo per fare un esempio. Ma ci sono anche movimenti politici, come c'è anche una parrocchia, per esempio. Quindi vogliamo attuare il principio che la rivista di cinema deve essere distribuita ovunque, quindi a noi andrebbe bene anche un sito di una trattoria, per esempio, faccio un esempio, di un meccanico, perché anche il cliente della trattoria, anche il cliente del meccanico deve leggere Diario di Cineclub. Per quanto riguarda i podcast, quali saranno le caratteristiche? Saranno recensioni, articoli, giusto? Stiamo sviluppando questa cosa perché ci sono molte proposte. Diario di Cineclub, per esempio, Diario di Cineclub è media partner di un progetto molto importante che si chiama Cinema Anch'io. Cinema Anch'io è un progetto per l'accessibilità culturale per i non vedenti